Ecco, non è che succede qualcosa di grave se uno si iscrive al corso e poi dopo 2 o 3 settimane decide che non ce la fa, non gli interessa, non corrisponde. Non in questo senso, assolutamente. Però si comincia a, diciamo, a creare una relazione che poi in realtà continua lungo tutto il corso, perché poi, come vedrete, mano a mano ci saranno delle email, ci saranno dei link, eccetera. Allora, innanzitutto, adesso in una parola, in un attimo, come si fa? Si fa molto semplicemente in questa maniera: dalla mia pagina andate al link del corso Home 2006. Nella Home 2006, qua in basso, c'è scritto, ecco, to do. Iscrizione al corso entro martedì 15 marzo 2005, ore 9. Perché tutta sta cosa così stupida? No, perché non è stupida per niente. Perché entro martedì 15 marzo, ore 9, vuol dire che uno ha avuto la prolusione, la lezione di oggi e la lezione di lunedì per prendere la decisione. Perché entro le ore 9 così? Perché in realtà io con le vostre iscrizioni le devo sistematizzare e richiede abbastanza tempo sistematizzarle. Cioè devo creare un database con gli studenti di quest'anno, devo creare un indirizzario, devo creare una serie di cose. Quindi mi devono arrivare entro il martedì mattina di quell'altra settimana, così mercoledì è pronto. Mi spiego, ecco qual è la strana ragione. Naturalmente lo potete fare anche molto prima. Come si fa a fare un'iscrizione? Operazione di pochi minuti, ma proprio pochi minuti. Si manda un'email a antonino.saggio@fastweb.it, ovviamente basta fare il clic qua e si va al mail tu. Nell'oggetto scrivere, nell'oggetto dell'email 2006 CAD, nel corpo dell'email scrivere cognome, nome, email, anno di frequenza, corso di laurea e facoltà, indirizzo postale, telefoni e una piccola foto. Gli ultimi campi diciamo, non sono obbligatori, però in realtà e non verranno in alcun modo resi pubblici, cioè il vostro telefono, il vostro anno di frequenza e queste altre informazioni non verranno rese pubbliche, sono conservate da me. Sono in situazioni di crisi, ne abbiamo avute tante negli anni, queste altre informazioni si rivelano, diciamo, molto importanti. Ci sono successi un sacco di aneddoti, adesso non vale la pena di spiegarvi, ma l'ultimo proprio a Firenze, per dire. Vi racconto per dire quanto è interessante questa cosa. A Firenze noi abbiamo fatto una mostra del corso quest'anno, si riferiva agli studenti del 2004, quindi noi l'abbiamo fatto nel dicembre del 2005 degli studenti del 2004. Abbiamo fatto questa grande mostra, gli studenti sono venuti a Firenze. C'è stato un equivoco, alcuni studenti hanno preso erroneamente, ma non è ironico, hanno proprio preso erroneamente, 10 cataloghi che erano 10 cataloghi da dare omaggio ai professori e diciamo, ad altre persone del corso, non li dovevano prendere i 10 studenti. Dopodiché io vado lì e questi mi dicono, ah, ma noi i 10 libri li abbiamo dati agli studenti, come si chiamano questi studenti? Tal dei tali. Fortunatamente io avevo il database e il computer con me, per cui ho potuto rintracciare questi studenti in giro per Firenze per la semplice ragione che c'era questa scheda. Quindi una piccola situazione di crisi è stata risolta, ma per dire un aneddoto. Comunque, allora riempite questi, riempite, se volete spedite una piccola foto, che vuol dire un sistema, una piccola immagine, se volete sì, se volete no, ma come anche le altre, e il cognome, il nome e l'email saranno resi pubblici. Saranno inseriti in un database e sono resi pubblici come quelli degli altri anni. Questo è un fattore cognitivo importantissimo perché è la prima base di connessione reciproca all'interno del corso. Va bene? Quindi fate un'email in questa maniera. E qui dico una cosa, adesso salto di un aspetto un po' secondario, mano a mano che si lavora con i computer, soprattutto in rete, si tende a lavorare molto anche con i provider di posta elettronica, cioè succede, noi provider, scusate, i programmi di posta elettronica, cioè succede che per esempio mentre in una fase, diciamo, della mia vita ovviamente il programma più usato era un word processor, adesso il programma con cui io passo il maggior numero di tempo è proprio il programma di posta elettronica. E nel programma, perché il programma di posta elettronica è così, diciamo, diventa così rilevante? Perché in realtà ha tutta un'altra serie di funzioni accessorie, calendario e soprattutto database, e soprattutto, siccome man mano delle informazioni girano via email, è molto più facile rintracciare un determinato argomento, un determinato testo, un determinato ragionamento, rintracciando le vecchie email. Questo tipo di gestione viene fatta dai programmi specializzati di posta elettronica, anche se in alcuni ambienti internet è possibile diciamo avere anche un po' di archiviazione, ma non ha mai la potenza di un vero programma di archiviazione. Allora, come assignment, a chi non ha mai provato, cioè ci sono due grandi categorie di post emailisti, diciamo, per intenderci. Uno che è la categoria di chi sostanzialmente usa l'email, tipicamente Hotmail o varianti di questo, e diciamo si attacca su internet, guarda l'email e basta, diciamo, sostanzialmente. L'altra categoria è la categoria di chi usa i provider, i programmi di posta elettronica. I programmi di posta elettronica, il più antico si chiamava il Dora, non so se esiste ancora, se qualcuno ha un programma che si chiama il Dora. Nel pacchetto Windows è dato Outlook, in altri pacchetti software ci sono altri programmi, per esempio in Messenger c'è un bellissimo programma di posta elettronica che si chiama Mail. Qual è il grande vantaggio di avere questi programmi? Che le proprie email sono, diciamo, tutte archiviate, tutte ricercate per parole chiave, per thread, per fili, per argomenti, eccetera. Ed è abbastanza vantaggioso abituarsi a lavorare in questa determinata maniera. Per esempio, facciamo l'ipotesi che voi usate il programma di tipicamente Hotmail e intestete una corrispondenza su un determinato argomento con uno degli assistenti del corso. Non è uno scenario molto lontano, è uno scenario molto, molto reale in realtà, o anche con me. Tipicamente vi può succedere che dopo un po' volete riandare a isolare tutto questo gruppo di email, vedere i link che vi sono stati dati, rivedere cose precedenti, rivedere gli allegati, eccetera. In genere più complesso o diciamo i programmi in rete tendono, diciamo, a non essere così efficienti da questo punto di vista, anche se vi permettono di conservarli sotto certe modalità. Tra l'altro il vantaggio di avere un programma diciamo che gestisce la posta ha anche un altro grande vantaggio, che voi potete fare dei backup proprio di tutti i documenti di posta. Cioè, per me, se mi si distruggono tutti i documenti di posta è un assoluto disastro, perché io non so, 3.000 indirizzi, ho 50.000 email e io, diciamo, periodicamente devo andare a tutta questa serie di materiale, mi spiego? Quindi, come non è un must, non è una cosa che dovete fare per forza, l'unica cosa che dovete fare realmente è quella di iscrivervi, se volete iscrivervi, attraverso quelle modalità. Vi consiglio di usare, però, di imparare, se non l'avete fatto, a usare un programma dedicato. L'impostazione è veramente, diciamo, facilissima, ci sono nell'account, dovete scrivere qual è il vostro, diciamo, indicazioni di account, ci vogliono via di massima pochi minuti per farlo, dovreste essere assolutamente in grado. E l'unico piccolo drawback o problema che a volte succede, soprattutto nell'ambiente di Windows, e qua forse puoi illustrarlo meglio te, il problema è che a volte alcuni di questi programmi facilita un po' di più lo scaricamento di virus, credo che questo sia il problema, o no? Ecco, quindi bisogna stare molto attenti sulla gestione degli allegati, che bisogna fare ugualmente anche anche via internet. Bisogna sempre fare attenzione a che cosa succede con gli allegati di via posta elettronica. Però, diciamo, con un minimo di cautela ce la si può cavare. Va bene? Sì? Ecco, dimmi. Quella di Gmail, che è come una diciamo, il database viene conservato in un provider o localmente? Si può scrivere localmente anche tramite un programma. Fantastico. Allora, se voi, quando avete queste notizie, vi prego di darne, come ha fatto appunto adesso il nostro collega. Adesso io metto il link, la parola chiave, lo cerchiamo insieme, che qualcuno può seguire questa terza via, che è una via che io non conoscevo. Come si chiama esattamente il programma? La parola. La mail di Google. Ah, ho capito. Allora, se noi andiamo in Google... Vado a Google. Ero connesso un attimo fa. Che è successo? Un attimo soltanto. Allora, dillo ai tuoi colleghi, così lo fanno loro, quelli che hanno il computer acceso. Dagli l'indicazione. Ma gmail.it quindi praticamente, no, gmail.com, va bene, questa è un'altra alternativa al gmail.com. Probabilmente più semplice da alcuni punti di vista. Io spero che questo... Ok, ci sta entrando. Ah, quindi è un service login, farà... Ok. È praticamente questo. Questa, se è un'alternativa, appunto, poi la verificherete. Ma comunque grazie di avercelo detto, magari ci giochiamo un po' appena abbiamo tempo. Allora, adesso veniamo invece, risolta questa cosa, essendo le 15:50, mi domando, francamente, quanto tempo ci rimane. Noi ci rimangono 20 minuti che lo sprecheremo. 15:50 faccio, no? La lezione a che la finisce? 16:10, quindi mi fa io abbiamo 20 minuti. Allora è 16:30, perché non riuscivo a guardare bene. Allora ci possiamo muovere tranquillamente alle 16:30. Allora, entriamo dentro alcuni aspetti di questo corso e della sua strutturazione, del sito e del perché questo mondo del World Wide Web è così importante. Allora, cominciamo da questa presenza del sito, del mio sito, che è una cosa che in genere gli studenti dopo un po' diventano più abili di me a navigare il mio stesso sito, e in particolare è molto interessante vedere come loro si muovono in maniera diversa da come lo faccio io. Allora, questo sito innanzitutto è un sito nato nel 1999, verso settembre del 99, quando veramente c'erano pochissimi siti personali. Esistevano ovviamente alcune riviste sul web, in particolare la più antica italiana, che si chiama architettura.it, che era nata nel 96-97, però non era abituale affatto questa idea che ci fosse una home page, come dire, personale di uno studioso o docente. In particolare perché il sistema del web sembrava, come dire, un sistema non aulico, non ufficiale, non serio, tra virgolette, di comunicare informazioni, pensieri, strutturazioni, eccetera, eccetera. In realtà io fin dall'inizio, naturalmente ero interessato a fatti informatici fino appunto dagli anni 83-84, però fin dall'inizio io invece sono stato estremamente interessato con il web proprio perché mi dava la possibilità di avere un rapporto con le informazioni, con le persone, cioè di tipo assolutamente più informale. E questa è stata sempre la chiave, nel senso che essendo abituato, soprattutto in quella fase, a pubblicare molto, ero abituato ad avere un tipo di comunicazione abbastanza ufficiale, attraverso dei parametri di comunicazione ben assodati e ben noti, quindi una certa oggettività, una certa freddezza, un certo, come dire, rigore nel porre le argomentazioni sia documentarie sia di tipo critico, eccetera. Il web invece mi aveva, fin dall'inizio mi aveva interessato per la possibilità di avere un tipo di comunicazione più diretta, più informale, più veloce e in fondo anche più coinvolgente per alcuni aspetti. Quindi questo web è nato nel 99 e dopo circa 5-6 mesi fu notato da Marco Prizzi, che era proprio l'editore di questa rivista che si chiama Architettura.it, che molti di voi conoscono, e mi disse: ma no, ma guarda, questa è una cosa veramente bella, veramente importante. Io in realtà la tenevo così, più che altro per me, non è che mi rispondevo molto all'esistenza di questo web. E mi dice: no, come no, questa è una cosa molto molto importante e significativa, e la linkò nelle pagine, diciamo, degli architetti italiani, anche se questa in realtà non è una pagina, delle pagine di un architetto, erano delle pagine appunto di una persona che sostanzialmente fa ricerca, si occupa di architettura come docente o come diciamo ricercatore. Quindi questa è la partenza del web. Il web si è man mano molto sviluppato, sia in dimensioni sia in radicamenti. Adesso ve ne illustro molto rapidamente la struttura, che a voi diventerà abbastanza familiare nel tempo. Allora, sostanzialmente il web funziona con una lunga... Ah, ecco, un'altra ragione... come dire, dal punto di vista tecnologico io sono sempre stato legato ad avere un sistema di scrittura del web il più semplice possibile, per la verità innanzitutto per una ragione di tempo, che non ho mai avuto il tempo di approfondire delle conoscenze che invece voi come studenti media avrete ben presto, sia perché mi piacciono le cose abbastanza semplici e immediate. Siccome il web lo faccio direttamente io, non c'è un intermediario, questa facilità, immediatezza, se forse fa perdere parecchio dal punto di vista dell'efficienza e anche dell'appeal grafico, però dall'altro si guadagno io molto in velocità ed è l'unica maniera che io possa diciamo usare questo strumento. Allora, il web è diviso in grandi sezioni. La prima si chiama News Appointments and Blog Updates, in cui si mettono le notizie principali che stanno succedendo. Qui per esempio è iniziato il corso, su questo punto torneremo dopo, la mascherina del corso. Qua ci sono a Londra i risultati del concorso Nurbaneiri. E la gente che conosce il mio modo di ragionare il web si chiede perché io abbia messo questa locandina. Questo è uno degli ultimi libri della collana usciti. Questa è la conferenza stampa che... non è la conferenza, è un simposio, un convegno organizzato da Scienza delle Comunicazioni, che si svolgerà il prossimo mercoledì, nella mattina prima del corso, quindi io sostanzialmente lascerò questo convegno e verrò al corso, in cui si parla di una serie di Roma da città eterna a capitale del futuro, una serie di progetti sia visti sia dal punto di vista della comunicazione, della cultura, eccetera, ma anche dell'architettura e dell'urbanistica. E io farò vedere un poco di ricerche fatte in questa cattedra, soprattutto da persone che si sono laureate con me sul tema di Roma. A proposito, mi preme ricordarvi che usciti dal corso un po' più in là, verso le 18:30, al residence di Ripetta, che forse molti di voi conosceranno, è lungo via di Ripetta, circa a metà del suo sviluppo, la piazza del Popolo andando giù sulla destra, c'è questo, si dà il premio Ance e Ina all'architettura italiana. Ci sono dei premiati da una giuria e da un gruppo di esperti, quindi ha una certa, diciamo, rilevanza. Viene assegnato questo premio, saranno esposti anche i vari libri dell'Ance e della Collana in particolare, e soprattutto ci sarà un cocktail. Quindi, siccome a me mi è stato detto di invitarvi, vi invito. Quindi, se volete, avete capito dov'è, no? Avete capito tutti. Residence di Ripetta, via di Ripetta, scendendo sulla destra, circa a metà di via di Ripetta, a 100 metri da Piazza del Popolo, per intenderci. Allora ve lo ricordate, oggi stesso. Quindi qui ci sono altre cose, altre, diciamo, cose rapide. Questa è una sezione che riguarda sostanzialmente i libri, in cui il link importante è questo. Qui ci sono tutta una serie di lavori miei che sono parecchiucci, molti sono legati al link, cioè è possibile, andando qui, andarlo effettivamente a vederlo, l'articolo di cui si parla o l'intervento di cui si parla. Quindi, diciamo, bibliografia, index alla bibliografia. Questi sono alcuni libri a cui cliccando si può andare. Vediamo un attimo. Una sezione collegata a questo sito è questa sezione che si chiama Coffee Break. Adesso ci sta andando. In questa Coffee Break ci sono... speriamo che funzioni, non si blocca. Mi auguro di sì. È un po' lentino sto wireless, eh? È un po' lentino, ecco qua, è entrato a Coffee Break. Probabilmente molti di voi ci stanno facendo lo stesso percorso. Allora, qui ci sono circa 70 articoli organizzati attraverso degli ambiti tematici: gli architetti, le idee, le interpretazioni, IT Revolution. Ognuno di questo è un articolo. In alcuni casi vi darò delle letture linkandole direttamente ad alcuni di questi. Sono, diciamo, articoli quasi tutti non fatti per il web, sono tutti quasi tutti articoli che sono usciti prima in versione cartacea, cioè in alcune riviste tipo Domus, Costruire, Rassegna o altre, e successivamente sono stati rieditati e messi nella versione web, aggiungendo anche dei link, nuove foto e cose del genere. Quindi è una versione, come dire, più adatta al web, e quindi, insomma, c'è questa cosa che è Coffee Break, che fa parte di questa sezione. Poi, sempre in questa sezione libri, ci sono le collane. Lasciamo perdere le collane e lasciamo perdere il progetto. Ecco. Questa è un'altra sezione che si chiama 10 e lode, in cui io parlo di alcune cose specifiche che accadono, secondo me, positive. Questa è una sezione che riguarda conferenze, in cui ci sono tipicamente la trascrizione delle conferenze. Trascrizione video, cioè nel senso che voi potete seguire la conferenza via video e alcuni link. Ce ne sono molte. Qui entriamo invece nel grande mondo della didattica, di cui anche voi cominciate a fare parte. Qui ci sono i corsi, tutti i corsi svolti, e, ogni, e ogni, ognuno di questi corsi rappresenta un grosso mondo in cui entrare, e poi le tesi di laurea, in cui qui in evidenza ci sono le tesi più recenti appena fatte, mentre qui ce ne sono un altro numero, e se si va qua si va a tutte le tesi. Ciascuna di questi materiali in realtà è completa, cioè se uno vuole vedere la tesi di Andrea Sollazzo va qua e la vede tutta, non è che vede il pezzo, c'è tutto, vedete? C'è assolutamente tutto, dalle tavole quasi sempre c'è assolutamente tutto, non proprio sempre. Quindi diciamo questi materiali, che sono materiali abbastanza importanti, sono presenti integralmente sul web, e in genere poco dopo che la tesi viene discussa si trova sul web. È un materiale abbastanza utile per chi fa questo tipo di lavoro, eccetera. E qua lasciamo perdere, perché sennò ci perdiamo. Allora, questi sono tutti progetti speciali, eccetera. Allora, adesso la cosa che vi volevo far vedere è la novità del corso di quest'anno. Consiste nel fatto di avere, di fare il più possibile, mettere le lezioni, dopo che si sono svolte, in formato audio, nella possibilità per voi per scaricarle. Come si fa questa cosa? Che è, diciamo, del tutto abbastanza pleonastica per chi è venuto e ha seguito appunti, ma allo stesso tempo abbastanza fondamentale per chi in realtà avrebbe piacere, c'è qualche saluto caso, di persone che dice: io non sono potuto venire alla promozione, ma il mio compagno di banco mi ha detto che in effetti è una cosa abbastanza significativa, sai che ti dico, io stasera invece di vedere la partita mi scarico la promozione, d'accordo? E l'ascolto. Come si fa questa cosa? Si fa così: si può andare al blog con questo link. Adesso vediamo se ci va. Ci state andando anche alcuni di voi? Probabilmente, ecco perché è così lentino. Adesso lo carica. Ecco, andando al blog, il blog in realtà c'ha un sacco di cose, ma adesso nel nostro caso specifico interessa questo discorso della prolusione. Allora, se voi non lo fate, per favore, cliccate ascolta la prolusione, si scarica un file MP3 di circa 7 megabyte, quindi non molto grande, che contiene, diciamo, la produzione. A questo punto poi ve lo sentite nel computer oppure dovete fare, d'accordo? La cosa importante è che, ovviamente, essendo, secondo me, il sistema migliore è questo, è il file audio e poi l'accesso alle illustrazioni. Allora, in questo caso c'è scritto vedi le immagini, andate alla lezione che io ho cambiato rispetto alla volta scorsa, nel senso che ci sono, vedete, le immagini principali che vi ho proiettato, più i link, più tutte le varie altre cose. Quindi con i due strumenti contemporaneamente si possono fare queste cose. Oppure se siete delle persone che sono abituate, qualcuno c'è forse, ad operare iTunes Music Store, cioè scaricare queste cose direttamente nel lettore MP3, attraverso questo link andate direttamente a iTunes Music Store, che non c'ha soltanto i dischi di Madonna e altre cose del genere, ma c'è anche una tecnologia che si chiama podcast. Conoscete? Sapete di cosa sto parlando? Volete che partiamo? No, guardate. Per chi lo sa ci va, per chi non lo sa non importa, se li scarica con il blog, d'accordo? Allora, uno strumento molto importante per capire come funziona il sito, ecco, è che è possibile avere una... un attimo, dove mi sono perso? Ecco. È possibile dentro il sito fare delle ricerche mirate, cioè sapere dove una determinata persona, per esempio un determinato argomento o una determinata cosa, sarà affrontata. Questo è un bel vantaggio per fare delle ricerche di qualche tipo. Facciamo questo gioco. Qualcuno di voi ha un compagno, una compagna, un amico che ha seguito il corso lo scorso anno? Sì. Ecco, mi dica il nome, vediamo che ha fatto questo. Cipolla Chiara. Chiara Cipolla. Allora, mo vediamo di indagare Chiara Cipolla. Allora, si fa così. Siamo nel sito. Se voi vedete, vedete che qui c'è scritto address e search. Se voi battate in search, andate a finire nel punto finale del sito, vedete? Dove c'è questa finestra che si chiama search, eccola qua. Allora, se tutto funziona bene e non mi fa fare brutta figura, io posso fare la ricerca in Saggio Site, cioè nel sito di Saggio, oppure ovunque, di quello che mi interessa. Io adesso posso mettere Chiara Cipolla, che tra l'altro mi ricordo perfettamente. È stata anche a Firenze. Allora, vediamo che salta fuori Chiara Cipolla che ha fatto. Eccola qua. Allora, innanzitutto è risultata un aderente alla mostra Script Terragni Futuro corso di progettazione. Eccolo qua. Clicchiamo. Quindi siamo finiti in una pagina di ambienti espositori, quindi scopriamo che Chiara Cipolla ha partecipato alla mostra di Firenze, perché la vediamo qua, giusto? E forse da alcune altre parti. Poi qui, per comodità, noi abbiamo messo anche quello che è appunto l'indirizzario, in cui l'elemento fondamentale, lo saprete anche voi, non è tanto e solo l'email che così abbiamo trovato, ma anche il sito internet di Chiara Cipolla, che è questo sito internet fatto per questo corso. Quindi se noi clicchiamo qua e Chiara ha tenuto il sito in ordine, eccolo qua. Quindi abbiamo addirittura già una foto calda, e se entriamo dentro possiamo vedere anche le cose che lei ha fatto in quell'anno. Poi possiamo anche vedere in quali altre occasioni, in quali altre cose lei è stata, diciamo, coinvolta. Questo è l'indirizzario ed è ovvio che c'era nell'indirizzario dell'anno 2004. A un certo punto qua ci sarà Chiara Cipolla, ovviamente. Corso di progettazione architettura home page, settimo ciclo. Qua di nuovo c'è un indirizzario. E mano a mano vediamo quante entrate ci sono. Ecco, questa presentazione CAD 2004 è importante perché da qua accediamo al lavoro finale di Chiara Cipolla. Ecco, Cipolla, eccola qua. Faceva parte di questo gruppo con la Di Campli, Della Serra, Cipolla, Giovannetti. Hanno fatto questo tema e da qua ci possiamo andare a vedere esattamente tutto il loro tema. Allora, noi qua abbiamo soltanto individuato una cosa. Naturalmente io qui posso fare, posso mettere qualunque argomento che a me mi interessa. Posso vedere, per esempio, non so, dove ho parlato di Terragni, dove ho parlato di Terragni e la Casa del Fascio, dove viene citato in un studio, qualunque cosa. Il vantaggio di questa ricerca è che è una ricerca, come dire, guidata all'interno del sito. Ovviamente si può fare, benissimo, tutti sapete, all'interno di internet. Allora, abbiamo ancora 20 minuti, quindi possiamo andare un poco più avanti. Quindi questo è uno strumento abbastanza utile, mentre questa parte in basso è una maniera di andare direttamente alle sottosezioni. Sì, come no? Sì. Esattamente. Questo è il motore Google. Quando tu metti ovunque, li cerca dappertutto. Per cui se noi chiediamo Chiara Cipolla, no, adesso mi interessa cosa esce di Chiara Cipolla. Esce, vedete, giustamente viene prima direttamente la home page e poi diventa direttamente, ritorna a questo. Ma lei ha cercato in Google in questo momento, però. Almeno a quanto credo. Sì, sì, ha cercato in Google. Everywhere è in Google. Allora, la caratteristica di questo corso, quindi, è anche quello di quest'anno, è di avere proprio le lezioni registrate e la possibilità di ritornarci dopo se volete. Questa è una cosa in più, gli anni scorsi non c'era, era fatto, diciamo, privatamente da diverse persone, ma non in maniera istituzionalizzata. Dopodiché noi abbiamo ovviamente la home page del nostro corso, perché mentre questo è un grande universo in cui entrate qualche volta, è un grande universo, è grande come gigabyte, magari è una stupidaggine, però insomma è grosso, e, questa è la pagina specifica che riguarda il vostro corso di quest'anno. A poco, capite, per quella cosa, la prima cosa che noi costruiremo insieme è proprio l'indirizzario e verrà fatto con quelle vostre iscrizioni. Allora, qui ci sono una serie di dati che sono importanti. Innanzitutto vediamo di presentare un attimo meglio la struttura del corso. Io mi chiamo Antonino Saggio, abbiamo capito, e sono il titolare di questo corso. Questi sono i due link fondamentali, anzi i tre link, al sito, al blog e al podcast. Dopodiché il corso si compone dall'architetto Francesco De Luca, che è lui. E l'architetto De Luca segue questo corso dal 2001, quindi ha anche una lunga, diciamo, consuetudine. E, oltre a tutti gli ausili che danno gli altri docenti durante un concorso, quindi diciamo, supporta le vostre ricerche, email, contatti, eccetera, in particolare l'architetto De Luca tipicamente tiene alcuni tutorial chiave qui in laboratorio. E su alcune diciamo di questi ambienti, e poi fa delle lezioni anche lui teoriche, in particolare nella parte finale. Francesco De Luca opera come docente anche in facoltà in corsi suoi che tra poco saranno annunciati, poi mi dirai quando, o già si sanno, non sono quasi lo scolare, va bene. Ci sono dei corsi che lui tiene nel corso di laurea di disegno industriale che possono essere ad alcuni di voi interessanti o per seguirlo oppure per avere ulteriori supporti, eccetera. E tra l'altro l'architetto De Luca è anche autore di un libro della collana di informatica che poi entrerà in campo con più evidenza successivamente, proprio un libro sulle tecniche, diciamo, di indagine, tecniche di indagine, di manipolazione dell'architettura e di ricerca dell'architettura attraverso il computer. Allora, poi abbiamo l'architetto Rosetta Angelini. Rosetta Angelini deriva dalla storia del corso, è stata una studentessa nel 2003 che ha svolto molto brillantemente l'esame, dopo di quello si è laureata con una tesi che potete vedere. Ormai avete capito come nel sito, una tesi che ha anche interessi dal punto di vista non solo architettonico ma anche del paesaggio e dei rapporti con le nuove tecnologie, giusto? E collabora al corso molto attivamente attraverso, diciamo, una serie di supporti e di dialoghi che interessa in particolare con gli studenti, anche il rapporto alle tesi finali, e farà sicuramente un contributo anche teorico lungo il corso. L'architetto Antonio Di Raimo, anche lui proviene dal corso che ha fatto nel 2004, sono stati due anni diversi, e Antonio Di Raimo si è laureato di recente, relativamente di recente, con una tesi sui rapporti tra tanta architettura, non rapporti teorici ma rapporti formativi, proprio come alcune tecniche della danza, tecniche, movimenti, strutturazioni possono essere trasposti in architettura, con una tesi di un tasso di ricerca anch'essa molto avanzata. Anche questa la potete vedere se volete nel sito. Tutti e tre loro fanno parte insieme a me di un gruppo di ricerca che si chiama NitroSargioNet, che ha sede al Villaggio Olimpico, e molto spesso voi verrete nella parte finale del corso a fare, diciamo, qualche incontro lì direttamente. D'accordo? Facciamo anche tutti parte di una struttura, diciamo, come dire, di lavoro e di ricerca. Poi ci sono l'architetto Emanuele Darducci e l'architetto Fabio Valenza, che non sono qui e che sono dei docenti del DUDI, erano precedentemente proprio interni al corso, adesso sono dei docenti dei corsi alludi e offrono delle, diciamo, degli ambienti applicativi particolari che può essere che per alcuni di voi è la cosa interessante. Quando sono in grado di formalizzare il programma ve lo facciamo sapere. Lì è importante avere le email di tutti, perché ovviamente noi entriamo in rapporto molto attraverso le email, d'accordo? Io le ho scritte in questa maniera, sapete perché? Per evitare, no, gli spider che cercano per l'email, ecco perché dovete fare così, oppure ricopiarvela a mano. Cioè questa at è un'immagine, no? Avete capito? È un piccolo trucco da 2 lire. Allora, da qui potete andare al programma in versione HTML, in formato doc, se lo volete scaricare. Questi sono dei mondi enormi, e vi consiglio di andarci con cautela, cioè, se no, cioè, perché sono tutte le cose svolte lo scorso anno. E non è una grande idea andare a curiosare troppo lezioni o altre cose, perché se no vi si comincia a confondere la vita. Però, comunque, ci sono. Allora, questa è la prolusione che abbiamo visto e questa è la prima lezione, il World Wide Web. Allora, io volevo dire, la lezione la portiamo avanti lunedì prossimo, cominciamo col dire alcune cose di tipo orientativo. Non so se prenderla sullo scherzo o no direttamente, comunque oggi, o da almeno alcuni 5-6 anni, noi abbiamo qualche cosa che è molto, come dire, molto importante e molto potente. Non soltanto abbiamo Internet, che è stata una rivoluzione veramente significativa, che ha cominciato a essere messa a fuoco attorno agli anni 95-96 e poi l'accelerazione, ma a ridosso del 2000-2001 abbiamo cominciato a sviluppare, in maniera molto forte la possibilità di accesso alle informazioni via rete attraverso delle ricerche guidate. Questo è in varia maniera sempre nei computer, fin dai tipi più rudimentali, ma una cosa è fare un find, come si faceva nei vecchi word processor per individuare una parola all'interno di un testo, un'altra cosa è fare quello che possiamo fare oggi. Fare oggi attraverso questa battaglia che è parzialmente vinta attualmente da questo motore di ricerca che ormai tutti, credo, immagino, conoscono, che si chiama Google. Che cosa succede qui e come funziona Google in parole molto molto molto semplici, ma per capirne come dire, l'importanza. Google è uno strumento assolutamente fondamentale per riuscire a trarre profitto dal mondo della rete oggi, dal mondo delle informazioni sulla rete. Allora andiamoci e vediamo un attimo come funziona. D'accordo, eccoci qua. È un ambiente molto assolutamente semplice, con questa, diciamo, unica barra di ricerca, con dei piccoli link fatti così quasi senza voler sembrare, e con questo look infantile, no? Google credo che ricordi proprio i primi vagiti, che non so qual è esattamente la storia, ma io ho sempre pensato che i bambini forse dicono qualcosa del genere, e questo look plastilinoso. Come sapete, oggi l'economia mondiale, parlo di economia mondiale, dipende da Google in enorme misura, Perché se Google va giù o Google va su in borsa, ne risentono le economie internazionali. Quindi dietro questo look, dietro questa immagine, si nasconde qualcosa di molto importante. Cosa si nasconde? Si nasconde la possibilità di interrogare sostanzialmente la cosa più vicina a Dio che noi abbiamo creato. Perché questo è Google. Ha delle caratteristiche storicamente attribuite alla divinità. Cioè ha delle caratteristiche di velocità, onnipresenza e apparente onnicoscienza che in genere erano date, diciamo, a caratteristiche proprie della divinità. Quindi è probabilmente la cosa più vicina di l'uomo, insomma, io lo dico un po' scherzando ovviamente, però tanto per attivizzarvi, probabilmente la cosa più vicina a Dio che esiste. E quindi noi, uomini e donne del 2006, abbiamo questa, diciamo, caratteristica di poter interrogare questa para Dio in maniera, diciamo, apparentemente sostanzialmente gratuita, anche se poi, come vedremo, è abbastanza apparente il sistema, ma in fondo lo è anche. Allora, qual è la base dell'interrogazione? La base dell'interrogazione è ovviamente quella di digitare una determinata cosa. Cioè, se io chiedo a Antonino Saggio, tanto per D, lui tira fuori, adesso che lo sta facendo la ricerca, no? Ecco, tira fuori una serie di risultati che sono questi qua, e cominciando da legare a quelli più probabili. Incredibilmente tiene sempre questa qua come numero uno, che è la vecchia versione del mio sito, che lui comunque per qualche ragione conserva, e poi ovviamente viene nel mio sito, e poi mano a mano ci sono, diciamo, le altre cose e così via. Chiaramente la grande forza del sistema è quello di avere un motore, una serie di algoritmi per cui sa quali sono i più probabili o i più forti. Ma naturalmente questa è la ricerca più semplice possibile. La cosa interessante è quando si mettono insieme più cose. Cioè, quando io chiedo, per esempio, che so, Terragni, Antonino Saggio, per esempio, allora noi cominceremo a vedere che lui mi individua questo come primo argomento e questi altri. Allora io posso fare la stessa cosa, per esempio, con mettere questo tipo, si è mai occupato, che ne so, di Terragni, Moretti, esiste mai un'accoppiata di questo tipo? Sì, ecco, ci sono alcune serie di cose, sono solo 366, in cui queste quattro parole ci sono. E che cosa ha fatto Antonino Saggio, per esempio, per fare un esempio con Chiara Cipolla, adesso per tornare a questa è scritto male, perché lui sa pure questo, eccoli qua. Allora si scopre che c'è un logo context in cui ha fatto che c'è questo, eccetera eccetera eccetera. Allora la chiave molto semplice ma fondamentale in realtà è quella di accoppiare varie parole. Addirittura una maniera in cui io adopero, e che ho scoperto che è una eccezionale, è veramente interrogare come si fa un oracolo. Cioè, se io veramente non so come funziona, che ne so, una meridiana, io non faccio altro di dirgli proprio esattamente così. Non gli metto neanche meridiana, gli chiedo come funziona una meridiana. Questa è proprio la prima cosa che mi è venuta in mente. Eccolo qua. Quasi sempre risponde, sempre riesce a rispondere. Se io formulo la mia domanda in maniera, eccolo qua, vedete? Quindi io ho un interrogativo, come dire, chiedo al mio paradio di darmi la mano. Se io lo riesco a formulare in una maniera che sia minimamente decente, addirittura in forma verbale, cioè come funziona la mediana, quasi sempre mi risponde, e parliamo dell'italiano. Dopodiché, ovviamente, se io lo vado con l'inglese, la percentuale aumenta molto di più, se io riesco a formularlo addirittura in inglese. Ma in genere parto con l'italiano, e come sempre funziona. Io ho fatto attraverso questa tecnica delle scoperte meravigliose, tra parentesi, delle scoperte che hanno portato alla nascita delle amicizie o addirittura degli inviti a delle conferenze. Perché, per esempio, il famoso Baccolini era stato scoperto in questo modo, che a un certo punto che io facevo questa determinata ricerca sul Borromini, mi chiedevo quali erano i significati simbolici legati alla sfera e all'uovo. Allora, interrogando Google, dicendogli quali sono i significati simbolici, arrivai al bimbo Baccolini. Dopodiché ci fu tutta questa cosa, mi venne diventato. Per dire, ecco. Allora, la capacità di interrogarlo è una cosa abbastanza significativa. Dopodiché Google c'ha molte altre cose. Una cosa è un'ancora di salvezza che può usarlo, ma che è molto importante e può diventare estremamente importante. Come lavora tecnicamente Google? Qualcuno lo sa? Come fa? Cioè, se io voglio dire, oppure voi, state a casa, e se qualcuno di voi si ricorda la parte della lezione sul Rural Studio, che fa parte della funzione, e non ha il link con questa lezione, e gli viene desiderio impellente alle 4 di notte di leggerlo, come farebbe, avendo solo Google a disposizione, cosa scriverebbe qua? Rural Studio? Forse no, perché tu vuoi leggere il mio articolo. Allora basterebbe mettere, per esempio, quasi sicuramente, saggio Rural Studio, vediamo dove va, Eccolo qua, l'ha trovato subito al numero 1. Questo è l'articolo che vi ho segnalato per chi voleva, diciamo, sapere cose in più del Rural Studio. Eccolo qua, ci sta andando. Allora, adesso vi spiego questa cosa. Per cui io, quando vi faccio i vostri link a voi, faccio prima, se notate la cosa incredibile, io faccio prima a cercare le cose sul web che a cercare sul mio computer. Quante più cose io ho sul web, quanto più facilità ho io stesso di accedervi attraverso questo sistema. Perché non mi ricordo quel determinato articolo in cui parlavo di questo, ho detto lo chiedo a Google, cioè faccio una triangolazione mondiale per ritornare al punto, mi spiego, cioè non mi metto a cercare nel mio computer locale, ma cerco su Google e Google mi dice dove l'ho fatto, mi spiego? Allora, è come andare sulla Luna e tornare, no? Per andare a comprare pane, però in realtà è più efficiente. Perché c'è questa maggiore efficienza? Vediamo che chi sa, qualcuno lo sa sicuramente, perché lui è così pazzescamente efficiente? Per cui io faccio, ci metto questa velocità pazzesca a trovare un'informazione. Lui, Google, sta facendo una ricerca su tutti i computer in rete del mondo, quindi su milioni e milioni di computer. Come fa a essere così veloce? Chi sta la ragione? Sì, con i cavi del cuore, ma c'è un fatto particolare che bisogna tenere presente, ed è una cosa che mi serve indicarvi, lo fa con le chiavi di lettura. Ma perché? Perché l'ho fatto così velocemente? È un calcolo matematico, il risultato di non è quella la ragione per cui lo riesce a fare così velocemente. Emanuela Romiti, dov'è? Lui comunque è l'unico, chi è Emanuela? Abbiamo peccato a subito. Lapo, com'è? Com'è? Come fa a fare così veloce? Esattamente. Ma lo fa con le copie cache. Cioè lui, Google, l'oggetto Google, non è che materialmente in quel momento si fa il giro di tutti i computer, ma fa le cosiddette copie cache. Cioè cosa fa? diciamo che il suo database è composto da queste persone, guarda il suo computer e la mette qua, lo copia sul proprio, il contenuto del suo lo prende e lo copia sul proprio, eccetera, lo fa per tutti. Finito questo giro, finito, diciamo, 150 milioni di computer al mondo, ricomincia, no? E quindi gli aggiorna. Cosa è? Questa copia si chiama la copia cache ed è un'ancora di salvezza fondamentale. Perché un'ancora di salvezza fondamentale? Nessuno capisce perché può esserlo? Perché lo scenario è perché è un archivio di tutto. Però può succedere che per una qualche ragione, seguitemi, per una qualche ragione voi avete distrutto l'informazione, ma rimane in Google un certo lasso di tempo, perché lui ce l'ha nella copia cache. Allora è fondamentale poter sapere come accedere a questa copia cache, perché succede qualche volta esattamente questo scenario. Per esempio, sei in un posto dove per una ragione o per l'altra non c'è l'accesso a quella cosa, l'informazione reale rotta, ecco, esattamente quello che era successo era questa. Lei ha detto che bella la mia, quelle immagini che lei ha visto, ma lei ha detto, ma è la cosa mia, ha detto più l'immagine, non ha detto questo. Allora, per fare un esempio, quell'immagine, cioè che era quella della locandina, era successo esattamente questo, che io dovevo andarla a stampare in dipartimento, ma quel giorno, mi si era rotto il file, adesso non vado a raccontarvi le cose, ma quel giorno il server www.q1 era rotto, è stato rotto per 4-5 giorni. Allora, improvvisamente mi è venuto in mente come fare a recuperare l'immagine attraverso il cache, cioè io ho fatto la ricerca a Google, se linkavo, chiedevo il click, mi diceva pagina non disponibile, perché il server era giù, ma prendendo il cache, no, perché il cache lui aveva la propria cache, adesso lo faccio vedere un attimo così ci capiamo subito. Avete capito che cosa intendo dire, ma è una cosa che può essere estremamente utile in casi di emergenza. Ce ne stiamo andando? E, allora, vedete, allora, ritorniamo per esempio al mio sito. Io esattamente quello che avevo fatto era questo. Ecco. Ecco. Allora, ero andato qua, cliccavo qua e mi dava server non disponibile. Però, se io, clicco qua, vedo la copia cache. Eccola la copia cache. Che cos'è? È praticamente la copia che si fa a Google, e vedete che questa pagina, guardate com'è interessante, vedete che questa pagina non corrisponde alla pagina realmente in rete, è la pagina probabilmente di 2 o 3 giorni fa, giusto? Vedete che non è uguale a quella che vedete in rete, perché lui ha fatto questa copia cache 2 o 3 giorni fa. Però in questo caso io posso andare a copiare l'immagine che mi interessa, perché esiste una copia cache, anche se non è effettivamente in rete in quel momento. Allora, questa è una grande ancora di salvezza. Tra l'altro, qui vedete come Google diciamo organizza le sue ricerche, evidentemente, no? Perché ci sono quelle parole sottolineate. Un'ultima cosa, come fa, si chiama architettura, Ecco, come fa Google a guadagnare? A un certo punto uno si domanda, cioè come fa Google a essere lo strumento mondiale talmente importante che e porta le orecchie attraverso la pubblicità, e questa è la pubblicità, il banner, non c'è banner, questa è la ricarica, no, assolutamente. Google non ha banner, come è stato dimostrato quando l'ho fatto, cioè Google non ha banner. E Google non devi pagare niente, tutta la grande bellezza è che assolutamente grande. Ma come fa? Il è una cosa intermedia assolutamente geniale, e cioè propone, sì, diciamo che propone. Qual è tutta la questione? Siccome siamo, cioè la cosa bella, la cosa fantastica, è che è un sistema di alto tasso di intelligenza. Il binary che cos'è? Dico, ah Antonino, sai quanto è bello il tuo sito? Io ti do 2 euro se mi fai mettere il banner dei che ne so, d'accordo? È un sistema estremamente statico, nel senso che lui c'ha un bel sito, io un bel banner, ho diciamo un'attività, fine della storia. Non fa veramente tesoro di niente dal punto di vista del sistema informatico. Invece il sistema che ha, diciamo, sostanzialmente elaborato duro, una parte fondamentale del sistema che ha elaborato duro, è estremamente dinamico. E la cosa bella è che per capirlo bisogna farlo, e ciascuno di voi lo potrà fare quando vuole, senza guadagnare quasi nulla, guadagnando qualche frazione di centesimo, però è importante per capire come funziona il meccanismo. Il meccanismo è assolutamente dinamico, cioè tu hai cercato architettura, io attraverso una serie di algoritmi di associazione e attraverso probabilmente, questo io non ve lo so dire, quanto la gente paga, no? Io associo criticamente il campo, diciamo, della tua ricerca e dei link guidati che tra l'altro appaiono in maniera praticamente quasi analoga, ma dopo un po' uno impara che sono questi qua e che a volte in effetti sono abbastanza utili. Allora, se io prendo per esempio, che so, voli basso costo, eccoli qua. Allora, innanzitutto ovviamente mi capitano una serie di cose qui che appartiene proprio alla ricerca base, e questo è come internet lui cerca, ma arrivano tutta una serie di cose qui, e queste cose molto spesso sono abbastanza utili. In realtà però questi sono meccanismi di tipo pubblicitario, d'accordo? E che cosa succede poi? Che se io da questa pagina clicco qui, praticamente non so esattamente come, ma in questo caso praticamente Google incassa un tot a ogni click, cioè ogni click attivato attraverso questo processo lui incassa un tot. La cosa bella della cosa è che quindi sfrutta un concetto di interconnessione di conoscenze. E questi link cambiano, questi link si modificano, ma sostanzialmente questo è uno dei modi principali attraverso i quali si crea questo, diciamo, impero. Devo dire che questa cosa l'ho capita molto recentemente e me l'ha fatta capire l'architetto De Luca, perché io a un certo punto, quando a un certo punto, da quale utilizzo mi sono detto, ma come fai i soldi Google? Non l'avevo capito. Invece il sistema è sostanzialmente questo. Dopodiché l'ho provato anch'io e lo potrete provare anche voi, perché Google ha una cosa che si chiama AdSense. Questa cosa è abbastanza ingegnosa, come quasi tutte le cose di Google, e cioè se voi avete un sito e gli mettete AdSense, lui automaticamente inserisce questi link di destra, e quindi scoprirete che il vostro sito è associato, può essere associato con le cose più strane, a seconda di come legge il vostro sito, diciamo, il motore di ricerca. Allora, attraverso questo sistema Google si afferma e all'interno di questo sistema diventa uno primissimo strumento indispensabile che voi dovete conoscere. Le altre parti che sono, diciamo, più articolate di questa lezione prima sul ruolo dell'informazione oggi vi verranno fatte due lì, non saranno, e se ci vediamo a Residence di Rivetta Bene, se no ci vediamo anche lì. Dunque, il Residence è questa, la Presidente di Azione del Popolo? nel scendere lungo via di Cretta, dopo circa 100 metri, grazie al poco, sulla destra scendendo, c'è questo residence di Cretta, all'interno della quale ci sono una serie di manifestazioni del premio di architettura. Siccome è libero, neanche mi stavo detto di libri di venire, se no usate saggio come parola chiave, che funziona in questo modo. Interessante, ma danno un bel tempo.